Ricordo mamma terra e il suo sangue intorno. Io ho attaccato mio fratello. Papà è un mostro. Piangevo, non sapevo lui chi fosse. Io volevo solamente che sparisse. Mamma stesa a terra, occhi neri e guance rosse. Il mondo prima dà, poi tranquillamente toglie. Mamma per fortuna si è rialzata a denti stretti. Ho iniziato a scrivere testi pure sopra i fazzoletti. Ma sai davvero, so chi sono, non ricordo più chi ero. L'inferno ci circonda, cazzo è vero. Cambiamo casa per scappare. La situazione intorno non è cambiata, è restata uguale. Una casa come un'altra, cambia scuola, cambia aria. Mia madre è uscita matta, Dio che merda la mia storia. Senza amici, sempre solo, senza soldi, solo sogni nel cassetto. Vuoto. Ho vuoto dentro, vuoto intorno. Ti prego resta un altro po'. Mi basta anche solo un giorno. Poi non so cosa farò. Mi ha abbandonato pure il mondo. Ma me la caverò. Come ho sempre fatto. Come sempre io farò. Mi porto mamma a terra con un coltello. Ti ho attaccato a mio fratello. Mamma non farlo. Non porto i risvoltini nonostante. La casa imbarcava lacrime da ogni parte. Mamma piange sempre tutta la notte. I mobili son vuoti, il frigo pure. Non avevamo niente a parte botte. Lividi su pelle, macchie scure. Mio fratello parte in guerra, dopo ritorna. Non è cambiato tanto. Se già stava nella merda, gli è sprofondato. È partito dalla merda per finire nella merda da soldato. Mamma si alza, facciamo le valigie, partiamo ancora. Mica in vacanza, ma in un'altra stanza vuota. Ho vuoto dentro, vuoto intorno. Ti prego resta un altro po'. Mi basta anche solo un giorno. Poi non so cosa farò. Mi ha abbandonato pure il mondo. Ma me la caverò. Come ho sempre fatto. Come sempre io farò. Ho vuoto dentro, vuoto intorno. Ti prego resta un altro po'. Mi basta anche solo un giorno. Poi non so cosa farò. Mi ha abbandonato pure il mondo. Ma me la caverò. Come ho sempre fatto. Come sempre io farò.